Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Con quello che costano oggi, le banane bisogna limitarsi a guardarle. Magari con la lente di ingrandimento, per avere l'impressione che quella che abbiamo comperato sia una banana di eccezionale grandezza. Anche l'urlatore Ghigo è colpito dal prezzo. E per dimenticarlo, ci fa sopra una cantatina. La banana è un frutto di moda. Fa più scena del whisky e soda. Te la chiedono di qui, te la vogliono di là. In callezzo o in ciaccia formato. Voi non lo potete vedere, salvo le indicazioni che vi darò tra poco. Ma in questo fantastico filmato degli anni 60, primi anni 60, era un cinegiornale, si mostrano alcune avvenenti signorine con in mano la banana che la mangiano con voracità, con delle chiarissime allusioni a pratiche non certo permesse nella pubblica visione di cinema italiani in quegli anni. L'insistenza era veramente fuori luogo. Oggi stesso non penso che un filmato del genere sarebbe stato trasmesso a cuor leggero in una Rai 1 in prima serata. Volevano fare gli spiritosi, partivano da un episodio reale, l'aumento del prezzo delle banane, hanno voluto fare con questo cantautore Ghigo, che non ha avuto poi fortuna, scomparso nei meandri e nelle nebbie dell'oblio, e alcune signorine del tempo con questa banana in atteggiamento, devo dire, molto esplicito. Perché non lo vedemmo allora? E come possiamo vederlo? Lo dico subito, andate su www.cinecensura.com e vedrete tutto quello che dai primi anni, dal 1917 più o meno in poi, fino agli anni in cui la censura ha avuto senso, era stato censurato. È stato tutto rievocato, riesumato e rimesso in rete. Così vedrete anche il filmatino con la banana, ma non soltanto quello. Il pubblico dibattito verte sul sequestro dell'episodio che lo scrittore regista aveva girato per il film Rogo Pug. L'accusa che ha portato Pasolini sul banco degli imputati è quella di vilipendio alla religione. Tutti gli interventi, al di là di un giudizio critico sull'opera, hanno confutato i termini dell'accusa e hanno polemizzato sul conflitto fra l'autorità che sovrintende alla censura e l'autorità giudiziaria. Buongiorno Emiliano Morreale. Buongiorno. Emiliano Morreale, critico cinematografico, conservatore della Cineteca Nazionale, collaboratore anche del Sole 24 Ore, probabilmente, se non il maggior responsabile, tra i responsabili di questa resumazione di brani censurati. Abbiamo messo a contrapposizione due diversi tipi di censura: quella sulle ragazzine ciuccia banana, che in effetti era un po' pesante, e quella sulla ricotta di Pasolini, che è qualcosa di serio. Sì, sono due tipi di censura diversi, e poi sono anche due modalità di censura diverse, perché in realtà questo sito, che nasce da un'idea di Pierluigi Raffaelli insieme a Tatti Sanguinetti, nasce dal Ministero dei Beni Culturali, perché la gran parte dei tagli di censura e della documentazione relativa alla censura stava lì, sta ancora lì, perché li conservavano i tagli ed è conservata benissimo. Lì ci sono i tagli fisicamente, le pellicole tagliate. Ma se le guardavano, cosa facevano? Le tenevano lì, perché, come dire, per scrupolo burocratico, e questo ci ha salvati, nel senso che adesso sono rimaste lì e le possiamo adesso rivedere esattamente come erano. Come il nuovo Cinema Paradiso, tutti i baci tagliati. Esattamente. Poi lì ci sono anche tutti i faldoni, non solo della censura, ma della censura sui copioni, della censura preventiva, dei nulla osta, eccetera. E questo, quindi, il cuore, diciamo, di questo sito è la censura di Stato, quella ministeriale. Poi c'è dell'altro, perché oltre alla direzione cinema, ai ministeri che censuravano per, come dire, mettono i divieti, 18, 14, eccetera, ci sono le iniziative sparse, cioè la magistratura. Quella di Pasolini, oltre ad aver avuto dei tagli, è un'iniziativa di un magistrato. Perché c'era stata una denuncia. Perché c'è una denuncia, o a volte anche sono iniziative di singole procure. C'erano dei magistrati famosi per queste iniziative, c'era il magistrato spagnolo a Milano, c'era il magistrato della Procura dell'Aquila, non mi ricordo il cognome, soprannominato il Torquemada d'Abruzzo negli anni 70. Insomma, c'erano queste figure, quindi c'è una magistratura molto attiva e molto attenta. Poi non si poteva nemmeno dire in un cinegiornale che questo avveniva. Già nominarlo era qualcosa. Sollevava un anatema. Certo, no, c'era una censura, poi ovviamente c'era a sua volta una censura sulla censura, ovviamente. Questi cinegiornali poi erano in realtà molti di quelli che noi abbiamo messo online sono di diverso tipo. Le censure riguardano quattro grandi temi, infatti abbiamo diviso così noi tutto il sito: sono il sesso, la religione, la violenza e la politica. Quattro temi che non si potevano toccare o con i quali bisognava fare attenzione. Mi hanno commentato l'affitto, quella... Scusi. Oh, dica pure, siamo tra uomini. Puttana. Cavoli, quello basso è di Firenze. Qual è il tuo? Tutte e due. Il padre, il papà? Io credo quello di Napoli. Ecco, qui la qualità naturalmente, quella del tempo, sì. È un pezzo di Umberto D che già in sera ha avuto tutte le censure del mondo, però si dice a puttana. Si dice a puttana e nel secondo coso non lo si può vedere, ma cioè, lo si intuisce dal dialogo, quello di Napoli è una ragazza madre che non sa neanche bene chi sia il padre. Erano quindi due si situazioni. Pensa che abbia, diciamo, frequentato moltissimi uomini. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno a tutti. Per te è una materia di approfondimento importante, vedere cosa è stato tagliato di tanti film di cui abbiamo spesso anche parlato in questa trasmissione. Beh, bellissimo. Poi Carmelo Bene invocava invece la censura come grande stimolo, grande nerbata per poter produrre, cioè, era comunque un confronto dialettico, forse non so se Emiliano Morreale sarà d'accordo, però è curioso proprio quello, potersi contrapporre a qualcosa rispetto alla apparente licenziosità attuale, in cui in realtà poi c'è un... Ecco, sui due film che abbiamo citato, che già sono stati oggetto di mille anatemi, La ricotta, uno degli episodi del film di Pasolini, in particolare quello del povero Stracci che muore per un'ingordigia improvvisa di ricotta, lo fa uno dei ladroni e muore come sulla croce, sì, come il ladrone, e l'altro Umberto D. Quali erano i motivi ufficiali comunque di anatema verso questi film? Con la voce di Bassani, il grande Wells diceva: povero Stracci, crepare è stato il tuo solo modo di fare la rivoluzione, e quindi questo era appunto, rientrava nella grande sfera della politica. Cioè, poi c'era il discorso. Ridete, sì, ha suonato WhatsApp, allora che c'è di male? Siamo gente moderna, dai, vai avanti, no, perché mi prendo tutti in giro. Invece fu cambiato, in povero Stracci non aveva altro modo di ricordarci che anche lui era vivo, diventava più patetico, più demiciano, appunto. Fu considerato il cavallo di Troia della rivoluzione proletaria nella città di Dio, appunto, come secondo il procuratore della Repubblica di Gennaro. Insomma, cioè, c'era un po' tutto in questa summa, in questa sorta di imitatio Christi del nostro Stracci. E Umberto D invece era un altro tipo di censura, che dava un'idea di messa del paese. Sì, erano i famosi panni sporchi che andavano lavati andreottianamente, andavano risciacquati con la lisciva di famiglia. Non poteva esserci una miseria così apparente che toccasse comunque persone che non erano dei miserabili per definizione, non erano dei barboni, dei clochard. Sì, appunto, erano gente che lavorava nei ministeri, poi c'era la strepitoso Battisti che faceva il glottologo in realtà nella vita, aveva questo viso molto particolare, fu la sua unica apparizione cinematografica. Quindi questi volti, cioè Maria Pia Casilio, Emiliano prima citava appunto la ragazza madre, questa ragazza che è incerta, che non sa su chi sia il suo reale padre, con queste facce ingenue e allo stesso tempo non patinate, che quindi potevano essere le ragazze delle grandi borgate romane dell'epoca, che si ponevano un problema scottante, violento per quell'epoca evidentemente. Quindi c'era uno sguardo lucido, delicato, etico sulla realtà, e questo era scandaloso evidentemente. Arriva ad Anzio la principessa di Monaco col suo panfilo personale, le cui caratteristiche regali sono state subito riconosciute dalle autorità portuali, che hanno il compito di identificare la nazionalità di ogni imbarcazione dai colori della biancheria che sventola sui pennoni. Come è noto, l'illustre ospite ha seguito con affettuosa premura le sorti del fratello John, impegnato nelle gare olimpiche di canottaggio recentemente svoltesi sul lago di Albano. La graziosa principessa Grace, che ancora porta il lutto per la recente morte del padre, nonostante fosse arrivata con 24 ore di ritardo sulla data fissata per le gare, ha potuto ugualmente assistere al... Allora, Emiliano Morreale, ricordiamo innanzitutto il sito, perché queste cose merita di andarle a vedere. www.cinecensura.com. Detto questo, oltre diciamo ai film noti, film famosi, quelli che hanno fatto la storia del nostro cinema, i tagli più divertenti, non li ho mandati tutti per radio perché molti bisogna vederli, sembrano incomprensibili, sono proprio di alcuni film documentario. C'è un fantastico documentario sul famoso cavallo Ribot, capito? Che lì, e a un certo punto si vede che portano delle copertine, degli attrezzi strani, cioè, Ribot è pronto per corteggiare la cavalla della regina, cioè devono accoppiarlo con un altro puro sangue. Sì, l'arem di Ribot è stato tagliato. Tutto integralmente. Ma i tagli avevano dei motivi curiosi, altri peraltro ancora che esistono ancora oggi e sono anche comprensibili, altri superati dall'evoluzione dei costumi. Si andava dall'offesa al capo di stato straniero, questa clip che abbiamo ascoltato era lo yacht di Grace Kelly con le mutande stese, ma ce ne sono di vario tipo. Altre riguardavano per esempio le pubblicità occulte. Tra i tagli di cinegiornali che noi vediamo ci sono un sacco di marchette, chiamiamole così, occulte. Quindi ci stavano molto più attenti di adesso. molto, molto adesso, adesso in TV no, ma al cinema è legale, mentre prima c'erano delle, il product placement si può fare adesso. Sì, però all'epoca non si poteva, e la censura doveva stare attenta che dei film che avessero preso più o meno a nero dei contributi dalle aziende non prendessero anche ad esempio i finanziamenti pubblici, insomma. Ecco, ce n'è uno bellissimo con un Sergio Endrio che canta in mezzo le mucche, quello perché è stato registrato, è stato tagliato. Allora, quello di oggi lo si chiamerebbe politicamente corretto, in effetti è una cosa abbastanza offensiva, nel senso che appunto in onore a quello che oggi si chiamerebbe politicamente corretto veniva tagliata una cosa in cui la canzone di Endrigo, Maddalena, sono finite le vacche magre, lui parla di vacche, c'è un montaggio orrendo, con signore in bikini, diciamo, signore in bikini, che dunque in quanto signore in bikini, quindi sono delle signore. Ma come veniva in mente fare una cialtronata del genere che non passerebbe oggi manco nella più trash delle televisioni private? Quelle erano, diciamo, quelle erano operazioni un po' oltranziste di Jacopetti, perché molti di questi cinegiornali Rizzoli li faceva Gualtiero Jacopetti, quello di Mondocane, quello di questa figura. Quindi gli piaceva accelerare. Sì, e lui è una specie di precursore un po' di Striscia la Notizia, di questa roba qua, ma molto più, più estrema. Beh, andava sul tosto però. Per capirci, chi si ricorda, io lo conoscevo bene, c'è quel terribile osceno cinegiornale finto, in quel fin caso, che sputtana la povera Stefania Sandrelli montando le cose a casaccio. Quello era un atto d'accusa contro quei cinegiornali di Gualtiero Jacopetti. Melog, cronache meridiane. Almeno eravamo solo in due ore. Ma quanti anni avevi? 13. Tocot! Simo, no, Simo! Fermati, Simo! No! No! Tieni! Prendile! È facile se tiene coraggio! No! Tanto non sei capace a fare l'amore solo con queste cose qui! Tieni! No! No! No! Mamma mia, non voglio pensare a cosa sia detto questo urlo straziante preso da Rocco e i suoi fratelli. Lo stupro di Annie Girardot, la scena famosa tagliata all'epoca. Ma io ho come l'impressione di averla vista questa scena. Questo qui poi è stata reintegrata. Perché l'ho vista questa scena? Ma in alcuni casi, per esempio, siccome le copie venivano tagliate, ma i negativi originali giravano, rimanevano. Poi successivamente, negli anni 2000, negli anni 90, eccetera, quello che spesso venivano reintegrate le sequenze. Noi abbiamo, la Cineteca Nazionale ha presentato l'anno scorso. Magari non è andato la prima serata su Rai 1, però l'ho visto da qualche parte. Sì, ma è andata in alcune edizioni restaurate, vengono reinserite queste scene molto spesso. Anche I Dolci Inganni, un altro film pluricensurato, La ragazza in vetrina, che è un film sugli italiani e Marcinelle, dove c'erano le ragazze in vetrina, appunto Marina Vladì che faceva la prostituta in vetrina, erano stati film pluricensurati. E poi successivamente, riprendendo i negativi originali, si è ritrovato. Ricordo che a parlare è Emiliano Morreale, critico cinematografico, conservatore della Cineteca Nazionale, collaboratore del Sole 24 Ore, che ha presentato proprio in questi giorni il sito www.cinecensura.com, dove sono tutti i ritagli, le frattaglie dei film censurati negli ultimi 50 anni, no più. Sì, negli ultimi. Allora, il primo taglio è del muto, degli anni 20, ed sono delle nudità in Gli ultimi giorni di Pompei, versione appunto muta. E poi ci sono altri tagli, anni 40, 50, c'è un po' di tutto. Si arriva fino a uno degli ultimi, si sono fermati agli anni 70, uno degli ultimi, I racconti di Canterbury di Pasolini. Ecco, io tempo fa fece una trasmissione sul cinema a luci rosse italiano e la persona che stava in studio ci raccontò che esiste la versione francese di tutti i film, perché erano quelli che proiettavano oltre confine, dove tutto quello che poteva essere tagliato veniva messo lì. Sì, non solo, ma a causa di questo il cinema italiano, a insaputa dei cittadini italiani, era in tutto il mondo sinonimo di cinema licenzioso, solo che gli italiani questo non lo sapevano, perché quelle versioni lì le andavano solo all'estero. Quindi noi avevamo questa fama, come dire, di grandi libertini per film che nessun italiano poteva vedere. Giuseppe Sanzonna, allora su Rocco e suoi fratelli magari facciamo un breve memento rispetto a quello che era un film jazzé violentissimo, jazzé di denuncia estrema comunque, però la famosa scena dello stupro di Annie Girardot io ricordo di averla vista, quindi comunque è passata anche per le televisioni italiane. Lo stupro e anche le pugnalate di Renato Salvatori, che Ferino come una bella sicchina su di lei la riempie di pugnalate. Poi c'è stato anche il lancio delle mutande, che sì, è quella la cosa terribile, sì, sì. Fu che lui lancia le mutande sì, in faccia a Delon, dice tu solo con queste, dandogli l'eticista di fatto, cioè c'era una serie di elementi in questo film che è più proto fasbinderiano di quelle di Visconti, qui c'è già questa latente appunto ferocia intima fra questi fratelli che sono, hanno qualcosa anche degli amanti fra di loro, no? Sì, come poi una che mandavano a battere alla fine, non è che parlassero della fidanzata, capito? Era anche quello, ma in una logica papponesca molto tipica, diciamo, di chi ha una visione molto, molto estrema del rapporto con le donne. Sì, poi c'è una Catina Pazzino che sembra metallica, una figura, l'ho vista in un'altra scena di queste censurate, che tocca il sangue dei figli per la grande madre, questa famiglia lucana che approda a Milano, questa Milano appunto piena di luci, di neon, che li mette in condizione di emarginazione, a cui reagiscono con violenza, e c'è questo suo toccare il sangue addosso ai figli dopo l'omicidio, che anche lì è tutto iperlirico, è tutto veramente da opera lirica, sopravvedibile. Allora, c'è anche delle censure ridicole, mi diceva Emiliano Monreale che addirittura l'indicazione stradale Via delle Zoccolette è stata censurata. Sì, in uno dei cinegiornali veniva tagliato. C'era il cinegiornale, al solito ci giocava un po' con questa cosa delle zoccolette. Facciamo apposta. Diciamo sì, ci giocavano un po'. C'è una piccola vena di maialesco parrocchiale, perché nei tagli che mi hai fatto vedere c'era un indulgere proprio di bassissima lega, che onestamente non fa nemmeno ridere. Fa vedere. Ma quello è proprio lo stile di Jacopetti. Sergio Rico che canta, parla di vacche magre, fa vedere le mucche col montaggio alternato le signore in spiaggia, è una cosa oscena. Sì, sì, estremamente, ma sono tutti così, insomma, erano molto, era un po' una scheggia impazzita lui, diciamo, del cinegiornalismo italiano di quegli anni. Poi infatti poi sono anche gli anni in cui Farmondo dice altre cose imperdibili di queste frammenti di censura. Ma guarda, non c'è nulla di veramente osceno, no. Di veramente osceno, ma noi ci siamo tenuti bassi, diciamo così, ci siamo appunto sito sulla censura un po' autocensurati, nel senso che poi c'è un ma cosa italiano. C'era che non si è visto nemmeno nel sito. Negli anni 70 ci sono delle cose molto estreme, dei film, dei mondo movie, dei film quelli nazisti con le violenze carnali, si va dalle feti strappati dalla pancia delle madri alle scissioni del clitoride, insomma, comunque non era un andavano molto sul pesante, insomma, noi abbiamo scelto una cinquantina di tagli di lungometraggi su che tutti possono che vedere, c'erano più o meno tutti, insomma, si va Sansonno sui mondo movie. Però la caratteristica di mondo movie, genere inventato da noi italiani, è proprio questo, dimostrare gli orrori del mondo. Beh, io ho intervistato Jacopetti per il mio documentario su Rodolfo Valentino, e lui aprì il suo mondo cane nel 60 proprio a Castellaneta, immettendo facce grottesche anche di persone con problemi fra il pubblico che assisteva all'inaugurazione del monumento a Valentino, e disse ecco, questi sono tutti discendenti del grande Rodolfo Valentino e oggi aspirano a entrare nel mondo del cinema. In realtà li aveva messi lui forzatamente e li inquadrava con dei grandangoli che ne rendevano eccessiva la mostruosità. Quando l'ho intervistato io non era assolutamente pentito, anche in questo era quasi commovente, nella assoluta coerenza, nel rigore. Dice sì, a Castellaneta era tutto perfetto per iniziare un film come Mondo Cane. Vabbè, cioè, quindi... grazie, quella era la sua visione del mondo, era la sua Weltanschauung, era la sua visione della vita. Quel quadro da mettere in camera, o un Sacro Cuore che sta bene in cucina, o un Sant'Antonio, o un San Rocco. No, non mi piacciono, sembra roba del presepio. E allora un bel quadro, guardi che scelta. A quale Madonna siete affezionata? Mi piacerebbe questa. Ah, la Madonna del Carmine. Costa 350 lire. Troppo. Voi quanto volete spendere? 250. 300. Allora prendete la Madonna di Pompei. È miracolosa. Emiliano Morreale, cosa c'è di censurabile in questo venditore di immagini sacre? Ma la banalizzazione. Sì, sì, di queste, tra l'altro quel cima di quegli anni, questo è abbastanza frequente. Ricordiamo un paio d'anni dopo Il Grido c'è la scena del finto miracolo della Dolce Vita. Il cinema d'autore di quegli anni viene molto colpito dalla, cioè praticamente non c'è un film importante d'autore degli anni del boom che non sia incappato nelle mani della censura. L'Avventura, Rocco sui Fratelli, La Dolce Vita, Il Grido, tutti questi film, perché quello è il momento in cui c'è il maggior attrito tra delle istituzioni che ormai non reggono più, è un'evoluzione dei costumi che non ce la fanno più a tenere, e a fare da grandi apripista sono appunto Fellini, Pasolini, Visconti, Antonioni. Poi invece si apriranno le cataratte e a sfondare sarà il cinema di genere, il mondo movies, il western, il giallo di Argento, è molto molto film di genere. Ma in quegli anni quelli che possono permettersi l'azzardo di sfidare la censura sono evidentemente i grandi autori. Bene, grazie Emiliano Morreale, grazie Giuseppe Sansonna, ricordo www.cinecensura.com, se volete farvi una risata e vedere di cosa si scandalizzavano i nostri zii, i nostri nonni, i nostri padri, dateci un'occhiata. Alla prossima!